tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione. Oggi parliamo di calciomercato, ma non con l'accezione di indiscrezioni e aggiornamenti sulle trattative, ma di calciomercato che è ostacolato in maniera seria dalle indicazioni della UEFA e dal ormai celebre fair play finanziario. Parliamo di questo con il collega del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, che gli ascoltatori da Tempo di Sport conoscono ormai da tempo. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, bentornato. Non sei qui per analizzare l'acquisto di Cavani da parte del tuo Napoli, no? Questo è un acquisto che mi ha reso ovviamente molto molto contento, ma il fatto che sia il colpo principale del mercato italiano rende un po' l'idea dell'attuale situazione. C'è però un dettaglio anche nell'operazione che può aiutarci a partire nel nostro ragionamento su come anche le società stanno operando. Poi chiaramente gli ascoltatori possono intervenire su questo e su altri temi all'800 24 00 24 e con gli sms al 349 238 6666, perché Cavani è uno dei tanti giocatori che sono stati acquistati con, anche se siamo ancora in attesa dell'ufficialità, però insomma dovrebbe essere acquistato con una formula nuova ma già abbastanza consolidata. Sì, in questa sorta di leasing dei calciatori, questo prestito oneroso con diritto obbligo di riscatto, non si capisce bene anche dal punto di vista giuridico e dei bilanci, visto che oggi parliamo prevalentemente di economia e di finanza applicata al calcio, andrebbero meglio comprese. Quasi tutte le società, forse avrete notato, gli appassionati di calcio soprattutto, ormai non acquistano più direttamente i calciatori, ma passano attraverso queste formule, dalla vecchia comproprietà appunto all'acquisto attraverso il prestito oneroso con diritto di riscatto. Questo probabilmente per avere poi la possibilità di diluire negli anni il pagamento e quindi anche l'impatto sul bilancio, insomma. Sono formule che poi toccherà alla Covisoc analizzare quando saranno presentati i bilanci. Servono ovviamente per tenere in equilibrio, in situazione di galleggiamento, le società alla luce di quel fair play finanziario che prima tu evocavi e che ormai domina gli scenari non solo in Italia. E questo sarà poi regolamentato in maniera definitiva dal 2012-2013, perché mi dicevi insomma che i club sono riusciti a trovare un punto di accordo e di incontro con Platini, che voleva anticipare la data d'ingresso del problema finanziario. In cosa consiste più o meno l'abbiamo capito, però dobbiamo precisare i dettagli e soprattutto poi valutare cosa possono fare realmente i club, perché è bello il calciomercato, si parla di nomi ogni giorno. Ad esempio pochi minuti fa peraltro Adriano Galliani ha detto Ronaldinho resta sicuramente al Milan, questo in occasione del Consiglio di Lega che sta per svolgersi, ma cosa significa operare in regime di fair play? Ma vedi, i club hanno ottenuto da Platini, i club italiani ma anche quelli inglesi, quelli spagnoli, di applicare fra due anni le regole del fair play finanziario. Nel frattempo però bisogna mettersi in regola, bisogna prepararsi a essere in linea con il nuovo regime. Questo significa semplicemente che le uscite dei club devono essere comparabili alle entrate. Non si potrà più ammettere che Moratti o Abramovic stacchino ogni anno assegni milionari per coprire il rosso di bilancio, ma le società devono essere autonome. Questo significa che per esempio il tetto degli ingaggi e le altre spese che alla società devono essere perlomeno coperte dagli introiti che derivano dai diritti TV, dal merchandising e dagli stadi. Il problema delle società italiane, ed è quello che paralizza il mercato, che sta paralizzando il mercato, è che gli attuali introiti per i diritti televisivi coprono le spese, coprono gli alti ingaggi dei calciatori, quelli dei campioni che abbiamo visto calcare i campi della Serie A. Peraltro si legge che ci sono club come ad esempio la Roma che attendono mensilmente la rata che arriva dei diritti televisivi per saldare pendenze anche con i dipendenti, quindi con i giocatori, di stipendi che risalgono alla scorsa stagione. Quindi siamo già in una situazione di emergenza. Siamo al limite e non per, come dire, avere una sorta di consolazione, ma anche il Barcellona ieri è stato costretto a chiedere un prestito di 155 milioni a due banche spagnole, al Santander e alla Casia, per pagare appunto stipendi e ingaggi, perché il nuovo presidente Sandro Rosell ha detto che quando è arrivato in società non ha trovato le casse vuote, quindi servivano i soldi per pagare gli stipendi. Quindi insomma anche gli spagnoli, campioni del mondo, non stanno messi benissimo dal punto di vista. Parliamo poi di un club che ha tutta una struttura diversa, con i soci, senza sponsor, insomma una situazione che dovrebbe essere un modello universale, in realtà non lo è neanche in questo caso. Probabilmente no, sicuramente parliamo, ecco, per esempio di club come quelli spagnoli, il Real Madrid è attivissimo, non a caso è una delle poche squadre attive, perché possono contare su un fatturato che è mediamente il doppio rispetto a quello dei massimi club italiani, parliamo di 300-400 milioni all'anno, e anche quindi la situazione debitoria può essere affrontata, gli alti ingaggi dei calciatori possono essere pagati magari ricorrendo alle banche. È una pratica, come dire, che Platini vorrà smorzare nei prossimi anni e bloccare definitivamente a partire dal 2012-2013, come abbiamo ricordato. Chi non si adeguerà, chi ricorrerà ad aumenti di capitale o a prestiti di questo tipo, sarà escluso, almeno così ci auguriamo, per una questione di serietà e appunto di fair play delle competizioni internazionali, dalla partecipazione all'Europa League e alla Champions League. Siamo sicuri che la scadenza sarà quella, oppure ci saranno poi proroghe, cose di questo tipo? Beh, io mi auguro che la UEFA non accetti un'ulteriore proroga. Il fair play finanziario doveva partire già dal prossimo anno, però come ho detto si è trovato questo accordo con l'associazione dei club europei, che è guidata da un altro campionissimo degli anni 80, Karl-Heinz Rummenigge, e quindi l'incontro decisivo tra Platini e Rummenigge ha fatto sì che si adottasse questa soluzione di compromesso. C'è un indirizzo preciso, che è quello di per esempio valorizzare i vivai, che non fa mai male, in particolare a situazioni, diciamo, sportive come quella italiana. Sui vivai per esempio si potrà investire, quindi i debiti sui vivai saranno ammessi, non sarà più ammesso di ingaggiare con cifre folli campioni e poi ricorrere magari alle banche per pagare gli ingaggi, perché le casse sono vuote. Ecco, sono le tipiche situazioni che in questo mondo ideale tracciato da Platini dovranno essere in qualche modo realizzate. In questo contesto, tra un attimo parliamo anche di quanto ha scritto oggi La Stampa con il presidente Berlusconi, che avrebbe detto: se guardo i bilanci del Milan svengo, in 7 anni ci ho messo 427 milioni, per quella cifra lo cedo, il tutto in un contesto molto informale. Ma in questo contesto appunto di cui stiamo ragionando, il fatto che il Milan abbia 10-11 giocatori in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, tra i quali Ronaldinho, significa che poi potrebbe migliorare il suo bilancio mettendo da parte tutti gli ingaggi che sta pagando questi giocatori? Evidentemente sì, insomma, la politica dei giovani che sembra appunto aver adottato la società rossonera mira a questo obiettivo, cioè ridurre il tetto degli ingaggi. Non si arriverà a forme di salary cap, di cui spesso si parla a sproposito per l'Italia, insomma è una pratica non applicabile a mio avviso al nostro campionato, ma sicuramente si punterà appunto a tagliare gli ingaggi. Insomma, pagare dai 4-5 milioni un campione significa per una società versarne almeno il doppio. Termini di imposte e contributi, ed evidentemente un costo non più sopportabile, a meno che, ripeto, non si aumentino le entrate. Ma in Italia, con i problemi che ci sono nell'applicare la legge sugli stadi e quindi avere gli stadi di proprietà, con i problemi che ha lo sviluppo del merchandising, visto quanto ciascuno di noi può verificare all'esterno di uno stadio, non credo che tutte quelle magliette vengano vendute, voglio dire, con il beneplacito della società, e quindi sono tutte risorse che altre società hanno. Poco per intervenire, Basterebbe poco, ci sono situazioni a mio avviso di connivenza, insomma di tolleranza perlomeno verso certi fenomeni che si sono consolidati negli anni e difficili da scalfire, a meno che appunto non si percepisca che il clima è cambiato e che bisogna muoversi diversamente. Max al 349-238-6666 dice: il problema del Milan non sono i soldi, ma il fatto che un giocatore affermato non verrebbe in un club che per 8/11 è da rifondare. C'è anche una valutazione, ci sono un po' di valutazioni tecniche, non tutti sono così esaltati dall'arrivo di Cavani al Napoli, poi ne parliamo magari nel dettaglio anche con il tifoso Marco Bellinazio. C'è però prima di tutto, in attesa di dare spazio alle vostre telefonate all'800 24 00 24, un'osservazione di Daniele da Sassuolo che scrive: così facendo, cioè con la scadenza del 2012-2013 per l'inizio del fair play finanziario, non si rischia che i grandi club vengano esclusi nettamente, immediatamente dalle competizioni d'improvviso come tutte le inglesi? Secondo me, dice Daniele da Sassuolo, sarebbe un danno economico non da poco anche per la UEFA. Evidentemente, proprio per questo è stato creato un periodo cuscinetto di 2 anni in cui le politiche del fair play devono essere applicate come se il nuovo regime fosse già operativo. Per quello, se si guarda ai vari tornei, non solo a quello italiano, c'è tanta parsimonia nel fare gli acquisti, e vale per tutti la regola: prima cedo, prima sfoltisco l'organico, riduco il tetto ingaggi e poi faccio degli acquisti mirati. Ma quello che scrive invece Marco, la possibilità che Lega e UEFA si accordino, cioè leghe nazionali, si accordino per un tetto salariale massimo, secondo te è plausibile? Guarda, l'ho detto prima, insomma, è un'ipotesi di cui spesso si parla, ma le competizioni europee è difficilmente, diciamo, è una soluzione difficilmente esportabile nelle realtà europee. Insomma, è una realtà americana basata su un concetto, insomma, di sport che è più spettacolo e più affari e meno competizione. E dunque dovresti, per esempio, partire dall'abolizione delle retrocessioni, garantendo quindi il giro d'affari costante per le società e quindi stabilendo che ogni società ha un tot di soldi da poter spendere nel calciomercato o per gli ingaggi. Rivoluzionare modello tutto, NBA, insomma, esattamente il modello NBA, insomma, degli sport professionistici americani, un modello che comporterebbe una rivoluzione tale, insomma, negli assetti dello sport europeo, che la vedo molto improbabile. Tra un attimo parliamo anche dell'ipotesi sciopero dei calciatori in vista del prossimo campionato, però ci sono tanti spunti che arrivano da voi al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che non si firma, ma chi dice e chiede se le prime quattro del campionato italiano, spagnolo o inglese non avessero i criteri per andare in Champions, ne andrebbero altre dello stesso campionato? Evidentemente, c'è questa ipotesi. Evidentemente già. Sì, ci sono, come sai, insomma, delle griglie nella Champions. Tra l'altro, noi perderemo un posto a partire dall'anno prossimo, e sulla base di quei diritti di accesso alle competizioni, insomma, si scalerebbe all'interno dei singoli campionati. Perderemo un posto, peraltro, non solo perché siamo andati male in Champions, perché la Juventus, che era una colonna del calcio italiano, è crollata dopo il Calciopoli, ma anche perché abbiamo trattato la ex Coppa UEFA ed Europa League come una competizione di secondo livello, mentre in realtà per il ranking UEFA i punti fatti in Champions e in Europa League hanno lo stesso valore. Evidentemente. Sì, c'è stato, insomma, un errore strategico da parte dei club italiani in questo. Dobbiamo preoccuparci, Marco, della ipotesi minaccia di sciopero paventata dall'associazione calciatori per il mancato rinnovo del contratto collettivo in vista del prossimo campionato? Ma spero di no. È una questione molto complessa, questo del contratto collettivo, che abbraccia evidentemente non tanto i contratti dei giocatori di prima fascia, dei campioni che possono, come dire, contrattare con le società e hanno più potere contrattuale, ma tutti quei calciatori che giocano in Lega Pro, in Serie B, e che in qualche modo erano tutelati da questo contratto collettivo. Ora questo contratto collettivo è scaduto, non si capisce bene se viene prorogato automaticamente. La Lega di Serie A, che oggi discuterà anche di questo, ritiene che non c'è nessuna proroga, perché c'è una nuova Lega, la Lega di Serie A, che è subentrata alla vecchia Lega, per cui c'è oggi il contratto libero. Infatti i nuovi contratti sono depositati senza tener conto dei vincoli previsti dal precedente contratto collettivo. In poche parole, cosa significa, qual è l'aspetto su cui puntano le società? Il vecchio contratto collettivo prevedeva che una quota importante, tra il 50 e il 60% dell'ingaggio del giocatore dovesse essere garantita e fosse fissa, mentre la Lega e i club di Serie A vogliono che invece sia aumentata la quota dell'ingaggio legato ai risultati. Sì, ai però premi. In questo senso il primo pensiero che mi viene è in Serie B, l'abbiamo letto e ne avete parlato moltissimo anche nel corso della stagione con Gigi Garanzini, un numero minimo irrisorio di club ha garantito gli stipendi alle squadre. Come si fa a pretendere da un calciatore l'impegno totale, la professionalità, la dedizione e quindi eventualmente intervenire sul suo contratto in caso di retrocessione quando il club non garantisce il minimo economico? Evidentemente tocchiamo un tasto dolente del calcio italiano. Tra l'altro domani la federazione avrà un'importante assemblea in cui verrà discusso dell'ipotesi di ammettere o meno una ventina di squadre tra Serie B e Lega Pro ai prossimi campionati. Almeno. Ci sarà poi tutta l'altra fila di pescaggi, di ricorsi al TAR, Consiglio di Stato, a cui siamo purtroppo abituati nelle varie stati del calcio italiano. Quello che è grave appunto è che ci sono tantissime società, importanti società, il Mantova, il Rimini, squadre quindi di se non di prima fascia, ma almeno di una Perugia fascia importante. Perugia già fallito ed ha già rinunciato ovviamente per questo all'iscrizione. Significa che scompaiono dal panorama calcistico italiano piazze molto importanti. C'è da riflettere su questo. Ci sono in Italia, ci saranno forse anche ai nastri di partenza delle prossime competizioni 132 club professionistici con tutto quello che comporta. In nessun altro paese d'Europa ci sono tanti club. E sì, questo... poi professionistici da un punto di vista formale, ma ormai chi segue un po' il calcio anche a livelli non più alti come la Serie A o la Serie B sa bene che la Lega Pro seconda divisione è molto più vicina alla Serie D di qualche anno fa rispetto alla Serie C2 di qualche anno fa. Da punto di vista tecnico, di organizzazione, di impegni per i club, ce ne sono molti che non hanno lo stadio a norma, devono spostarsi, trasferimenti, insomma. È un gap enorme che ha il calcio italiano, è un salto di qualità che non è stato compiuto. Sarebbe ora, io credo, di prenderne atto, di ridurre drasticamente il numero di squadre e di ammettere soltanto quelle che danno serie garanzie finanziarie e di strutture. So che per molte realtà sarà un vero trauma, perché l'Italia dei campanili pretende che ci sia una squadra in ogni cantone, ma evidentemente la situazione, la crisi economica e la mancanza di sponsor ha acuito già una situazione non facile per quanto riguarda la sostenibilità economica dei club. Bisogna prenderne atto, insomma, spero che si evitino ripescaggi e si eviti di riportare in campionati professionistici squadre per esempio come l'Ascoli, che è fallita 6 anni fa e che è di nuovo a rischio fallimento. Insomma, è una questione di serietà e di rispetto per i tifosi in primo luogo. Anche per il Pisa mi sembra ci fosse stata una situazione simile. Ci sono tante purtroppo situazioni di questo tipo, insomma, di fallimenti e di crisi continue. Evidentemente in determinate piazze riuscire a riportare in auge le società acquistando grossi campioni deve restare un sogno e purtroppo resterà un sogno. Illudere i tifosi, creare una squadra che poi ti regge un paio di stagioni e che poi si indebita gravemente, insomma, e scompare diventa soltanto, insomma, una presa in giro. Per chiudere, dal punto di vista così delle prospettive, come pensi che si svilupperà questo confronto che è partito in maniera piuttosto aspra tra le varie parti, calciatori, Lega, anche rispetto alla federazione? La Lega ha una posizione sì, abbastanza di rottura rispetto al passato. Esattamente, qualche settimana fa c'è stata questa decisione della federazione di ridurre per esempio da 2 a 1 il numero di extracomunitari ed è una decisione che ha messo in subbuglio le squadre, molte delle quali avevano magari già ingaggiato il doppio. Ma è vero che la norma era transitoria, dunque le società dovevano sapere che poi si sarebbe arrivati a questo punto? La federazione può sempre cambiare le regole, è una questione di cortesia istituzionale parlare con le società, che sono non solo quelle che tengono in piedi il movimento dal punto di vista economico, seppur con tutte le difficoltà che abbiamo detto, ma soprattutto sono poi le dirette interessate. E quindi si sta profilando, a mio avviso, uno spostamento di questa novità normativa verso il mercato di gennaio, quindi potrebbe esserci un ripensamento, ma tra oggi e domani ne sapremo di più. Benissimo, aspettiamo novità. Naturalmente grazie a Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore, per il suo contributo. Bentornati, 800 24 00 24, ci sono già diversi ascoltatori in linea, anche sms al 349 238 6666, andiamo con ordine, ci sono ancora tifosi del Milan. Stefania, ha qualche dubbio che in realtà i giocatori in scadenza di contratto verranno poi tutti lasciati andare? È certo che poi ci sarà trattativa nel corso di questa prima fase di stagione soprattutto, e che qualcuno di loro dovrà anche guadagnarsi se lo vorrà la conferma con le prestazioni sul campo. È difficile adesso dire quanti rimarranno, quanti se ne andranno, che idee abbia la società, che tipo di strategie abbia. Mentre ci sono diverse considerazioni positive sul ritorno di Pavone, direttore sportivo, ma soprattutto Casillo, presidente, Zeman a Foggia, ripartiranno dalla Lega Pro Prima Divisione con Roberto Rambaudi all'interno del club. Tra poco sentiremo anche le parole di Beppe Signori, che ha manifestato il suo entusiasmo soprattutto per quello che ha fatto con Zeman, Pavone e Casillo negli anni 90. Andiamo con ordine però, le vostre telefonate all'800 24 00 24. Federico da Milano, buon pomeriggio. Sì, salve. Prego. Senta, avrei voluto approfittare della presenza del giornalista Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, se non mi sbaglio. Sì. Ma non so se è ancora lì con lei. Comunque sia, piccola premessa, sono un tifoso milanista e sono dei tanti un po' infastiditi da gli stucchevoli dischi rotti di Galliani riguardo a quanto hanno speso in passato, piuttosto che quanto è diverso il nostro regime fiscale rispetto a quello di altri paesi, particolarmente la Spagna. Però riguardo a quello che voi avete discusso precedentemente, ero curioso di capire se l'UEFA, pur avendo a che fare, parlando di regimi fiscali ovviamente, con leggi dei singoli paesi, ha effettivamente un qualche potere o può intraprendere una qualche azione rispetto al fatto che oggettivamente in Spagna il regime fiscale favorisce enormemente i loro club rispetto ai nostri. Da quello che abbiamo detto prima, non dovrebbero esserci queste possibilità a disposizione della UEFA, non è nelle condizioni di dare indicazioni così rigide di regolamentazione per i vari ambiti nazionali, però probabilmente, anzi sicuramente, può pretendere che per partecipare alle sue competizioni i club abbiano certi requisiti, e di conseguenza diventa inevitabile che i grandi club debbano adeguarsi a questi requisiti, lo facciano in ambito nazionale e poi di conseguenza anche in ambito europeo. Fabrizio da Belluno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sarò molto breve. Sì. Io penso che l'unica cosa seria che sta facendo il Milan sia tagliare gli stipendi e tornare a investire sui giovani. Chi critica questo Milan vuol dire che non capisce niente di Milan, e io sono cresciuto col Milan di Sacchi. L'unica cosa è cresciuto che bene. Sta facendo il Milan. Benissimo, sono cresciuto, benissimo. Non dimenticherò mai quelle partite. Poi, quindi approva questa gestione attuale in questo momento? Ma questa dovrebbe essere sempre la gestione attuale delle squadre. Critica il presidente o comunque altri presidenti, di calcio non capisce niente. Fare calcio non significa spendere, ma significa investire bene. Poi gli stipendi degli altri calciatori possono essere garantiti da un fondo creato dai super mega milionari che prendono milioni e milioni di euro per giocare a calcio, quando dovrebbero essere i fisici o i chimici a prenderli quei milioni di euro. Vabbè, e quindi andiamo sulla sociologia qui. Aspetta un attimo, sono occupato. Prende che nessuno di voi sottolinei queste cose, non è sociologia, è realtà, purtroppo, giusto? Beh, vabbè, insomma, vediamo, nel senso che ogni ambito ha il suo mercato, ogni ambito professionale, quindi non è possibile ogni volta tornare su questo tipo di argomentazioni per giustificare la gestione dei bilanci da parte di alcuni club. Però qui dovremmo poi entrare anche su altri ambiti, quello dello spettacolo, del cinema, della musica, quindi insomma andiamo un po' troppo in là. Trovate anche una correzione, credo, per il discorso relativo all'Ascoli e all'Ancona. Prima ci siamo confusi con Marco Bellinazzo relativamente al fallimento dell'Ascoli, in realtà è fallita l'Ancona, me lo segnala anche Fabio Suardi, redazione. Qualcuno di voi ha anche scritto un SMS a questo proposito. Ci sono anche dichiarazioni di Del Neri, che tra poco vi faremo sentire. Tra queste ci sono quelle relative al mercato e ci sono anche osservazioni da parte vostra, soprattutto con gli SMS al 349-238-6666, ma ci sono ancora ascoltatori all'800-2400-24, mentre iniziano a essere proposte le prime immagini di José Mourinho alla Real Madrid nella sala trofei del Santiago Bernabéu al fianco di Florentino Pérez. Il Real al lavoro con pochi 10 giocatori a disposizione in attesa del rientro dei mondiali spagnoli e anche degli stranieri, in attesa di altri acquisti di mercato molto vicino, quello del tedesco Sami Khedira, eccellente già dai tempi dell'Under 21 e altrettanto valido nel corso di questo ultimo mondiale. Marco dalla provincia di Varese, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Senta. Sì, abbassi la radio, se no ci sono dei problemi poi nella ricezione. Mi dica. Sì, volevo... Io la radio ce l'ho spenta comunque. Prego. Niente. Comunque, se io sono tifoso milanista, vuol dire che non ho capito proprio niente. Mi spiace per quello che ha telefonato prima, dicendo che il Milan ha fatto delle grandi cose, però io ricordo che l'anno scorso non aveva preso giocatori talmente giovani che erano del calibro di Mancini, del calibro di, come stiamo prendendo adesso, Yepes, abbiamo preso Beckham. Abbiamo rinnovato, stiamo per rinnovare il contratto a Oddo, allora io proprio vuol dire che non capisco niente. Se Milan quest'anno qua riparte come l'anno scorso, tutto gasato per avere tre obiettivi, Coppa dei Campioni, campionato e Coppa Italia, vuol dire che io non ho capito niente. L'anno scorso non aveva... Marco, arrivo subito al dunque. L'anno scorso il Milan non aveva tre obiettivi, tutto gasato, aveva l'obiettivo dichiarato di entrare nelle prime tre e poi di fare bene in Champions e eventualmente in Coppa Italia, anche se quello è sempre stato un obiettivo minore per tutti i club italiani. Poi Mourinho, come giustamente ha sottolineato, è riuscito a dare una mentalità diversa e a far capire che giocando bene e vincendo anche in Coppa Italia serve per essere poi sempre più consapevoli del proprio valore, delle proprie forze anche nelle altre competizioni. Può concludere, prego. Sì, no, volevo dire che io se dovevo puntare su dei giovani, visto che c'erano tre obiettivi, e io secondo me, come parlava Galliani, diceva che si poteva arrivare in fondo tutti con questa squadra qua. Comunque se dopo col senno di poi vogliamo parlare in questa maniera qua, va bene. Comunque in Coppa Italia avrei fatto giocare dei giovani. Beh, li hanno fatti giocare con l'Udinese. Verdi ha giocato contro l'Udinese. Una partita. Cioè ha giocato una partita, noi abbiamo vinto la Coppa Italia primaverile col Milan. Sì, però il Milan ha giocato due partite. Il Milan ha giocato due partite in Coppa Italia con il Novara in casa e anche lì hanno giocato giovani come De Vito e poi in casa con l'Udinese ha perso, è entrato Verdi, hanno giocato altri. Sì, ma io volevo dire questo. Dico, visto che dobbiamo arrivare in fondo con dei giocatori vecchi come Pirlo, Gattuso e questa gente qua. Gattuso forse va via, sì, lo so, vabbè, quello che sarà con i forse e con i ma, visto che siamo su Radio 24, non facciamo niente. Quello che volevo dire io, perché non abbiamo fatto giocare questa, abbiamo dato di questa possibilità? C'è un difensore che dall'inizio dell'anno doveva giocare, che se lo sono portati dietro anche dopo la finale della primavera, sono passati con il Milan per prenderlo e non l'hanno ancora fatto che è Albertazzi? Giocare. È Albertazzi? Esatto. Perché non li fanno giocare questi giocatori qua? Evidentemente perché non li considerano ancora all'altezza, poi dopo si possono sbagliare anche le valutazioni, però se Leonardo o a tutti quelli che lavorano nello staff tecnico non ritengono che questi giocatori siano ancora all'altezza di proporsi ad alti livelli, pensano probabilmente anche di tutelarli. Poi magari è una valutazione che possiamo discutere e che è però accomunabile a quella di tanti altri club, perché la Juventus aveva fatto molto bene in primavera, con la primavera qualche anno fa, c'erano Marchisio, De Ceglie e Giovinco, ora è rimasto solo Marchisio e speriamo che il modo in cui lo ha gestito Lippi dal punto di vista tecnico, tattico e psicologico non incida sul rendimento di questo giocatore che ha delle grandi qualità. Giuseppe dalla provincia di Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora sarò molto breve, mi affido a voi che siete giornalisti di una radio, lo posso dire, tra le poche serie informate eccetera. Allora, tre domande secche e una ultima provocatoria, però rispondetemi all'ultima dopo. Allora, per i prestiti tipo Barcellona 150 milioni di euro, che garanzie danno le società calcistiche alle banche? Visto che i calciatori vanno e vengono, magari si rompono, vanno in periodo di crisi, cioè non è che sono un bene stabile tipo un palazzo e quant'altro. Come li possiamo classificare da un punto di vista finanziario? Questa è la prima domanda. Questo non lo so perché io non sono un giornalista economico, purtroppo il mio collega Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore non è più qui con me, però insomma ne parleremo e ne discuteremo in altre sedi. Presumo che ci siano delle garanzie perché comunque le banche non lavorano, però, a me, affinché sì. Noi che siamo amanti una curiosità interessante. Sì. Azioni, poi ci arrivo. Allora, sì. In caso di fallimento, può intervenire la Corte dei Conti? Parliamo dell'Italia? Non questa lo so. È la seconda domanda. Terza domanda, chi tutela i possessori di azioni, tra cui il sottoscritto e molti altri come me? Non lo so, credo che i possessori di azioni siano consapevoli dei rischi che ci sono nell'investire a livello azionario nel calcio e con società che sono legate al mondo del calcio. Sin dai primi tempi in cui le società sono state quotate in borsa, ci sono state perplessità sul fatto che questo potesse essere un investimento sicuro, a patto che ci siano investimenti azionari sicuri in questo periodo. Poi qual era la domanda provocatoria, così poi passiamo agli altri ascoltatori. Che ha fatto il calcio scommesse? E il grande vecchio che fine ha fatto? I poteri forti? Vabbè, ci sono anche altre domande. Tra poco sentiamo Del Neri, quello che ha detto ieri in conferenza stampa. Ci sono alcune cose interessanti, alcune che hanno fatto discutere e possono fare discutere. Ci sentiamo tra poco, c'è una breve pausa per le indicazioni del traffico, ci sono anche altri sms al 349-238-6666 e ci sono poi anche altre telefonate all'800-24-0024. C'è Nino da Milano che chiede se si può sapere qualcosa degli arabi alla Roma, chissà, lo capiremo tra poco in questi giorni, in queste ore. Certo, ci sono già stati tanti altri personaggi e altre figure che si sono avvicinate alla Roma negli anni passati. Ora la situazione è un po' più sicura e affidabile anche per chi va a trattare l'acquisto della Roma, però la sensazione è che anche chi va a trattare probabilmente aspetti che il valore del club diminuisca un po' per poi avere un vantaggio in questo investimento. Nell'attesa, la presidente Sensi rimane a gestire il club. Un attimo di pausa ancora di attesa, soprattutto per due ascoltatori, l'800 24 0024. Sono Daniele della provincia di Varese e Roberto da Roma, perché prima voglio farvi sentire cosa ha detto ieri in attesa dell'amichevole oggi contro la squadra araba allenata da Walter Zenga. Gigi Del Neri in conferenza stampa su due aspetti importanti. Il primo è quello sulla gestione degli attaccanti. Chi gioca meglio gioca, non cambia atteggiamento tattico sui giocatori, i giocatori hanno un certo tipo di attitudine e se io penso che due giocatori non si combacino come ruoli e come attitudini è difficile, ma non c'è come. Stamattina ho letto che ci sia una competizione fra Diego, Iaquinta e Diego, mi sembra siano giocatori totalmente diversi, stesso ruolo ma totalmente diversi, insomma. Non penso che Diego abbia la forza di sprofondamento di Iaquinta e Iaquinta non abbia le qualità per fare quello che fa Diego. Si compensano. Penso che due punte, posso giocare due punte alte, ma non mai due punte basse, insomma, personalmente. Questo era Gigi Del Neri. Effettivamente la sua gestione è sempre stata questa, molto lineare, sin dai tempi del Chievo, quando eventualmente utilizzava Corradi, Concossato e appunto due attaccanti alti, o come ha fatto anche alla Sampdoria in assenza di Cassano con Pazzini e Pozzi, finché quest'ultimo è stato disponibile nel corso della ultima stagione. C'è anche qualcosa che però Del Neri ha dichiarato relativamente alle ipotesi di altri acquisti da parte della Juventus nel corso di questo calciomercato, parlando anche di eventuali cessioni o partenze come quella di David Trezeguet. Sentiamolo. Manca un difensore centrale di ruolo, potrebbe mancare anche un esterno a sinistra basso come concetto, ma vediamo come va, insomma, non vogliamo disperdere quello che sono le qualità della Juventus. David è un giocatore che si è impegnato sempre, si impegna molto, un giocatore che ha i gol nel suo DNA, quindi è un giocatore che sembra che possa piacere a qualsiasi allenatore che lo può allenare, insomma, torno a ripetere, non è lui si comporta come si comportano gli altri, con grande applicazione, con voglia di fare, questo è garanzia, insomma. Dunque Del Neri ha parlato di vari ruoli da coprire, centrale difensivo, esterno alto, attaccante, però mi sembra corretta l'osservazione di Federico d'Alessandria che dice Del Neri non ha parlato di un tessitore di manovra, di gioco a centrocampo, ed è un ruolo del quale la Juventus avrebbe bisogno, nel senso che non c'è in questo momento un interprete che possa dare i tempi di gioco alla Juventus. Non c'era l'anno scorso, è stato uno dei grandi problemi. Marchisio ha già dichiarato anche nel corso dei campionati del mondo che si sente soprattutto un incursore. È giusto e corretto che lui sia uno dei due interni. Certo, le sue caratteristiche un po' ibride, discretamente abile in copertura, molto abile in inserimento, tecnicamente capace, poi non sono facilmente completabili con un giocatore al suo fianco che sia o un mediano o un regista classico alla Pirlo, alla Xavi o altri giocatori di questo genere, di questo profilo, chiaramente non di questo valore così alto. E quello potrebbe essere uno dei limiti della Juventus, pensando soprattutto ai giocatori che ha avuto nelle sue ex squadre del Neri, con le dovute proporzioni, comunque Corini al Chievo, Cigarini all'Atalanta, lo stesso Palombo che è migliorato molto in questo aspetto alla Sampdoria, e sono stati sempre giocatori che hanno dato poi il ritmo, la qualità del gioco e degli inserimenti agli esterni e agli attaccanti, alle squadre di Gigi del Neri. C'è anche un'altra correzione che vi devo, perché siete attentissimi, giustamente grazie alla vittoria dell'Inter abbiamo salvato il quarto posto in Champions anche per la stagione 2011-2012, a differenza di quanto avevamo accennato prima con Marco Bellinazzo. Andiamo avanti con altre due telefonate, poi il Tour de France in chiusura. Roberto da Roma. Buonasera. Buonasera, prego. Volevo chiedere un pochettino un suo parere sulla campagna acquisti della Lazio, visto che qua lo titolo si sta facendo ancora soffrire. Mi sembra di sì. Noi laziali siamo molto delusi, per parte insomma l'ex del Palermo, sono acquistato, non ricordo il nome, l'australiano, però sì, Bresciano. Bresciano, esattamente, sicuramente sono stato un acquisto. Per il resto mi sembra abbastanza deludente. Volevo un suo parere su questo, grazie. Grazie a lei, ma sono discretamente d'accordo, nel senso che certo non si può giudicare la Lazio escludendola dal contesto in cui stanno operando tutti i club. Se sono in difficoltà o comunque molto bloccate per ora le squadre che hanno un bilancio superiore, hanno ambizioni superiori a quelle della Lazio, chiaramente anche la Lazio vive in questo contesto. Ora si parla dell'acquisto congiunto con il Genoa di Kevin Prince-Boateng, giocatore centrocampista del Ghana che ha militato in Inghilterra nelle ultime stagioni al Portsmouth, potrebbe essere un giocatore di buona qualità, però ce ne sono altri poi di ruoli che andrebbero coperti. In difesa ad esempio è una squadra che, al di là del rendimento difensivo dell'anno scorso, che però derivava da un tipo di calcio molto bloccato che poi limitava le capacità offensive, ci sarebbe bisogno di un po' più di rapidità, e quindi è una squadra che va sicuramente completata. Ci sono poi anche altri casi annosi come quello di Ledesma che continuano a pesare sulla gestione complessiva del calciomercato. Rapidamente Daniele dalla provincia di Varese, prego. Sì, buongiorno. Io una piccolissima premessa. Ciccio Baiano, per cui un pezzo del Foggia di cui parlavate prima, è il nuovo vice allenatore del Varese, che è salito in Serie B, da notizia fresca di oggi. Bene. E poi un'altra cosa era relativa al discorso di prima che faceva il suo ospite, quando parlava di società di Lega Pro che sono molto simili e dilettanti. Secondo me il problema è il contrario, perché assistiamo a squadre... No, lo facevo io. Ah, ecco, io ho sentito in macchina questo pezzettino. Purtroppo anche a livello dilettantistico, vale a dire Lega Nazionale Dilettanti, l'ex interregionale, un'ecatombe di squadre che non riescono più a iscriversi a campionati, ma anche perché in eccellenza ci sono, ripeto, promozione ed eccellenza, squadre che fanno 4-5 allenamenti al pomeriggio. Sì, è vero. Per cui hanno in realtà uno status di... Parliamo di giocatori che prendono, adesso parlare di cifre antipatico, sì, non è il caso, parliamo di non è il caso, anche migliaia perché, di euro, sì, ecco. Stipendi che neanche gli operai prendono. Poi è chiaro, questi arrivano alla fine dell'anno, fanno fatica, chiedono soldi al comune, i comuni non ne hanno. Cioè il problema secondo me è anche questo, che i dilettanti scopiazzano, prendono il brutto delle società professionistiche. Ecco, questo è vero, ha ragione, ed è un andazzo che si protrae ormai da diverse stagioni e da diversi anni, e c'è questa difficoltà poi a conciliare la realtà in cui si è alla gestione reale che si dà a tutto il contesto tecnico, economico dei club, i dilettanti che lavorano con ambizioni eccessive e i professionisti formali che lavorano in realtà con una struttura non professionalmente all'altezza. Chiudiamo con un minuto e mezzo rapidamente di Tour de France per Augusto Stagi. Di cosa parliamo? Del Tour, delle bagarre di alta classifica, di questo ciclomercato che è esploso all'improvviso. A te Pier Augusto, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi. Intanto parliamo che si sta correndo l'undicesima tappa, una tappa che dovrebbe essere adatta agli uomini veloci, e quindi oggi abbiamo il duello più annunciato, salvo sorprese degli ultimi metri, tra Mark Cavendish e Alessandro Petacchi, che sono 2-2, quindi vediamo se il britannico dell'Isola di Man sarà in grado di superare il nostro Spezzino o invece Alejet riuscirà a portare a casa la terza vittoria in questo Tour de France. Per il resto siamo a metà corsa, tre uomini in fuga, sono tre uomini di assoluta bassa classifica, una curiosità, uno è in 139esima posizione, l'altro è in 149esima, l'altro è in 159esima. Sono Gesslen, Auger e Benitez, il gruppo della maglia gialla Andy Schleck a 3.13. Come stavi dicendo tu, in queste giornate di gran caldo, anche oggi sì, ci sono 44 gradi, veramente asfissianti, l'asfalto trasuda, l'argomento mercato la fa da padrone, se ne dice un po', se ne dicono un po' di tutti. L'uomo mercato, è inutile dirlo, è Alberto Contador, la stana di Alessandro Vinokourov, che dal prossimo anno dovrebbe essere il team manager del team kazako, ha posto sul tavolo 4 milioni di euro a stagione per il campione di Madrid, ma avrebbe rilanciato Bjarne Riis, che ha trovato due nuovi sponsor, ha un budget piuttosto importante e corposo, e in più alla fine della stagione perderà i fratelli Schleck, che andranno a fare una squadra lussemburghese, sì, in effetti dovrebbe essere l'immagine di questo piccolo Lussemburgo che, mettiamo, finisca così, rischia di vincere il suo quinto Tour de France, quindi pensate, nella sì, storia del Tour ci sono già 4 vittorie del Tour de France, tutti si ricordano di Charles Gaulle, sì, ma non c'è solo lui. Vedremo anche nei prossimi giorni naturalmente aggiornamenti sul Tour de France. Grazie a Piero Augusto Stagi, buon lavoro al Tour. Grazie a Filippo Reggi in regia, Flavio Suardi in redazione. Grazie a voi per averci seguito, a risentirci su Radio 24 da Massimo Callegari.